Letture di Radio 24. Anche un carcere può diventare un laboratorio di idee e di creatività. È il caso della sartoria del carcere di San Vittore a Milano. Un luogo dove sono stati realizzati i capi di prestigio come gli abiti di scena per gli spettacoli della Scala, con grande cura per la qualità e per i dettagli. Una possibilità concreta per i detenuti di sviluppare il proprio talento e poter ricominciare. Se c'è una cosa che viaggia nel mondo, è la moda. Bellezza e modernità. Farla nel posto più chiuso e brutto dà il senso dell'evasione creativa. Dalle mura di San Vittore anche oggi uscirà qualcosa di bello. Delle attività della sartoria, uno dei migliori business, sicuramente il più carico di significato, è quello della produzione di toghe per i giudici. Vengono cucite a mano dalle detenute. Tre stanze, taglio, sala macchine, tanto colore. Del carcere ci sono le luci al neon, le sbarre, appena socchiusa la finestra, e l'agente penitenziario che piantona la stanza e ogni mattina setaccia gli attrezzi, facendo l'inventario di forbici e ferri da stiro. La sartoria di San Vittore compie 20 anni. Ha realizzato abiti di scena per la Scala, quelli per Giochi senza frontiere, la giacca di Capitan Findus e tanti altri personaggi di pubblicità televisive. Poi, diventando grande, ha prodotto le proprie linee Gatti Galeotti e Sartoria San Vittore, con la solita sfida: convincere il pubblico a comprare questi modelli non per pia concessione sociale, ma perché sono belli, di qualità. Quello che tecnicamente non si riesce a fare in carcere prosegue nella sartoria esterna, dove lavorano ex detenute e donne che usufruiscono di pene alternative. La giornata inizia presto, alle 9 si entra in laboratorio, una pausa per un pranzo più rapido possibile in cella e di nuovo dietro alle macchine da cucito fino al tardo pomeriggio. Sabato discrezionale, domenica purtroppo di riposo, ciascuno dietro la sua sbarra. Non è un passatempo. Chi entra si prende un impegno serio, anche se non c'è un cartellino da timbrare. Tirocinio, poi borsa lavoro e assunzione, con retribuzione a salire fino a 900 euro. Una passione che spesso rimane dentro. Qui tutti ricordano la milanese Rosaria, che appena libera ha aperto un negozio di riparazioni sartoriali, diventando imprenditrice di se stessa. In sartoria lavorano al massimo 6 persone, di più non ci starebbero. Dal 97 ha aperto un'altra sezione nel carcere di Opera, oggi trasferita a Bollate. I capi migliori finiscono in una vetrina del centro di Milano, che fa girare la testa alle sciure. Il negozio della sartoria San Vittore ha aperto 2 anni fa. Pochi entrando si aspettano una boutique di questo livello, racconta Ida Piermarini, responsabile del laboratorio esterno. Solo a scontrino fatto chiedono la storia di questi vestiti. Ed è la storia di stanze illuminate dal solito neon, dove persone con ago e filo cercano di scucirsi di dosso il passato, dimostrando un talento che merita una seconda possibilità nella vita. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Stefano Landi, Ago e filo in carcere per cucire il futuro, dal Corriere Moda del 25 febbraio.